A conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. La scorsa settimana abbiamo intrapreso con voi una sorta di viaggio nel tempo alla scoperta delle origini del nostro debito pubblico, un macigno da 2.200 miliardi di euro che blocca la nostra economia e ci espone alle conseguenze di possibili crisi finanziarie. Siamo partiti dai primi anni del neonato Regno d'Italia nel 1861. Oggi riprendiamo il nostro viaggio dagli anni immediatamente successivi alla Prima Guerra Mondiale, nuovamente in compagnia del professor Gianni Toniolo, che ringraziamo per la sua presenza tra di noi. Grazie, professore. Grazie a lei. La Prima Guerra Mondiale provocò, per effetto dell'impennata delle spese militari, l'aumento del debito pubblico, che nel 1919 raggiunse il 119% del PIL. Vi si fece fronte emettendo titoli di Stato, per la metà a lungo termine, per il resto con buoni del tesoro, e con il ricorso all'aumento della pressione fiscale, soprattutto attraverso l'imposta sui profitti di guerra e la patrimoniale post-bellica decisa dal governo Nitti. L'operazione più rilevante fu messa in atto dal regime fascista, che nel novembre del 1926 avviò il consolidamento forzoso del debito a medio termine accanto alla cosiddetta quota 90, il nuovo rapporto di cambio con le valute estere equiparate all'oro. Il consolidamento del debito ebbe come conseguenza la conversione obbligatoria dei buoni quinquennali e settennali e volontaria dei buoni novennali in circolazione in un consolidato 5% denominato littorio, con un premio di conversione scalare rispetto alla data di scadenza del titolo presentato per la conversione. In tal modo si consolidarono 20 miliardi di titoli su un debito di circa 91 miliardi. Nel 1929, poco prima del crollo di Wall Street e l'inizio della grande crisi, il disavanzo dello Stato ammontava a 3.421 milioni di lire. Alla caduta del regime fascista sarà di 292 milioni. Aumento da attribuire per gran parte alle avventure belliche di Mussolini, con il debito pubblico che, grazie all'alta inflazione, scese dal 96% del 1935 all'88% del 39. La Seconda Guerra Mondiale ne causò una nuova impennata fino al 118% nel 1943. Professor Toniolo, che dice di questa operazione di Mussolini, che di fatto consolidò una parte del debito? Ma fu un'operazione dovuta soprattutto a considerazioni di carattere, come dire, internazionale, finanziario. Loro avevano l'esigenza, desideravano reintrodurre la conversione aurea della lira, la convertibilità aurea della lira. Questo significava ottenere un prestito internazionale, che fecero, e però mettersi al sicuro anche da speculazioni, e quindi temevano che ci fossero delle vendite molto forti sui titoli italiani a breve termine, e quindi allungarono sostanzialmente in modo forzoso tutta la filiera del debito pubblico, come avete detto voi, da quelli a brevissimo termine fino a quelli a settennali. E fu un'operazione tutto sommato che riuscì. All'inizio naturalmente qualcuno ci perse, ma chi tenne i titoli di Stato fino a scadenza ebbe un buon rendimento. Diversa fu naturalmente la storia virtuosa del 1906, quando invece il debito pubblico italiano ebbe una conversione dal 5 al 3,75%, che però fu fatta in termini assolutamente volontari e piacque moltissimo ai mercati. Sì, fu decisa dal governo Giolitti. Esattamente. Ecco, allora invece passiamo subito all'immediato secondo dopoguerra, quando si assiste a un altro fenomeno, cioè all'alta inflazione, che dà per così dire una mano al debito pubblico. L'iperinflazione, per la prima volta nella storia della finanza pubblica nazionale, contribuisce quasi ad annullare la spesa per interessi, tanto che il debito cala nel 1946 al 33% del PIL. E poi adesso faremo insieme un salto in avanti negli anni 70 e 80, gli anni dell'esplosione del debito pubblico con cui ancora oggi dobbiamo fare i conti. Le origini del dissesto della finanza pubblica vanno ricercate nel primo shock petrolifero del 1973. Da allora la crescita del fabbisogno pubblico di fatto non ha conosciuto soste, tranne brevi periodi. Il debito pubblico, che nel 1973 era pari al 55,4% del PIL, passa a metà degli anni 80 all'84,2%. A determinare lo squilibrio, l'incremento della spesa pubblica per istruzione, sanità, previdenza e assistenza, ma anche per finalità clientelari, non finanziata da un pari aumento della pressione fiscale. Negli anni 80 si registra una vera e propria esplosione del debito. Sono gli anni del cosiddetto assalto alla diligenza, delle leggi finanziarie che facevano sistematico ricorso all'indebitamento. Il debito, che nel 1982 era pari al 66,4% del PIL, 10 anni dopo salirà al 110,8%. Una pesante eredità che continua a pesare su questa come sulle future generazioni e che da quando l'Italia è entrata nell'Eurozona è divenuta non più soltanto un'emergenza nazionale, ma un problema europeo. L'Europa, dal Trattato di Maastricht del 1992 in poi, ha intrapreso la strada della faticosa e tuttora incompleta integrazione politica ed economica e poi, negli anni recenti della grande crisi finanziaria, ha regito con il Fiscal Compact, irrigidendo ulteriormente la disciplina di bilancio. Ora siamo di fronte al bivio. Il rigore deve cedere il passo a politiche orientate alla crescita e al sostegno dell'occupazione. Allora, professor Toniolo, siamo alla storia recente, gli anni 70 e 80, di fatto gli anni in cui il debito pubblico raddoppia. È corretto attribuire a quegli anni la responsabilità, per così dire, dell'attuale debito pubblico? Ma guardi, se parliamo di responsabilità, tra virgolette, io distinguerei fortemente gli anni 70 dagli anni 80. Sì. Negli anni 70 intanto bisogna ricordarsi com'era la situazione sociale, insomma, con delle tensioni spaventose, c'era il terrorismo, c'erano i morti per strada, si arrivò al rapimento dell'onorevole Moro e poi alla sua tragica fine. E in quel momento lì io capisco che i governi dovessero accomodare una serie di esigenze. C'era anche una forte inflazione, il che consentiva probabilmente di limitare l'aumento del debito rispetto al PIL. Quindi sì, ci fu un forte aumento negli anni 70, non c'è dubbio, si arrivò alla fine, insomma, si arrivò al 60%, un po' meno del 60% del PIL, quindi ancora livelli molto sostenibili. Sì. Nel 1980. Dove invece noi abbiamo veramente perso il treno fu negli anni 80. Eh sì. Negli anni 80 non c'erano più quelle condizioni che ho detto prima, c'era una crescita robusta e quindi sarebbe dovuto fare un po' come è stato fatto, diciamo, in età giolittiana, approfittare che la crescita era così robusta per contenere il disavanzo, possibilmente fare qualche avanzo e ridurre o mantenere costante il debito pubblico. Invece si volle aggiungere all'espansione che veniva per motivi ciclici una forte espansione fiscale che portò, come ha detto lei, in un decennio fece raddoppiare il rapporto, più che raddoppiare il rapporto debito-PIL. Noi siamo entrati negli anni 90 in questa crisi molto importante che abbiamo avuto nel 92 con un rapporto debito-PIL che era sopra il 100%. Eh sì, lo ricordiamo, fu l'anno in cui il governo Amato fu costretto a varare una maxi manovra correttiva, l'Italia uscì dal sistema di cambio, insomma fu una crisi drammatica. Spaventosa. Che non ha nulla a che fare con la crisi che abbiamo vissuto nel 2011, 10-11. Beh, insomma, che abbia a che fare, quella del 2011 è stata per certi aspetti ancora peggiore perché abbiamo avuto un calo dell'economia reale, del reddito, dell'occupazione, come non abbiamo mai avuto nella nostra storia economica. Sì. Quindi, mentre invece nel 1992 ci fu una breve caduta, ma insomma il problema fu soprattutto finanziario e fu quello di poi trovare le condizioni per poter entrare ugualmente nell'euro e ci siamo entrati per la porta di servizio, nel senso che siamo entrati con una forte riduzione, insomma, raggiungendo i criteri di Maastricht per quanto riguarda il disavanzo, ma con un debito pubblico che ci eravamo fin da allora impegnati a ridurre e che non abbiamo mai ridotto. Sì, e per ritornare ancora al 92, ricordiamo che ancora una volta ci fu una non casuale coincidenza tra crisi finanziaria e crisi politica, perché fu l'anno di Tangentopoli. Ma certo, certamente, certamente. Quindi molto spesso le due componenti vanno insieme, professore. Beh, molti dicono, sostengono, è difficile provarlo, che, proprio, che fu proprio questa largesse nella spesa pubblica che in fondo incentivò anche l'arrivo di Tangentopoli, cioè la corruzione si sviluppa anche laddove i fondi pubblici si spendono in modo non oculato. Un'ultima battuta, professore. Secondo lei l'Europa ce la farà finalmente a imboccare la strada di politiche orientate alla crescita? Questa domanda è molto difficile. Io penso di sì, devo pensare di sì. La crescita sta lentamente riprendendo. Sì. In Italia credo che abbiamo parlato molto di austerity, io credo che abbiamo dei problemi strutturali per la crescita che non dipendono, o perlomeno non dipendono in tutto dalle politiche macroeconomiche della cosiddetta austerità. Quindi noi abbiamo ancora da fare, il governo ha fatto abbastanza, sta facendo delle cose importanti che non erano state fatte prima, ma credo che ci sia ancora molto da fare se vogliamo rilanciare la crescita in Italia. L'Europa io credo che se la stia cavando. Professore, veramente grazie per essere stato con noi per due puntate ad accompagnarci, come dire, per mano in questa breve storia all'interno del nostro debito pubblico. Buonasera, grazie ancora. Buonasera a lei.